Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci anche stasera con voi, con un affettuosissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci di nuovo, sì, per farvi un po' di compagnia e anche per parlarvi. Beh, stasera si parlerà di cose simpatiche, come sempre del resto. Certo. Allora avremo due ospiti veri, questa volta avremo il dottor Tony Basso e poi avremo il nostro caro architetto Fantin, Giorgio Fantin. Beh, dopo li saluteremo. Intanto prima diamo la parola a Antonio, altrimenti... Un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro è il 346 23 20 033. Vi ricordiamo che è possibile l'ascolto in streaming, il relativo download della trasmissione, termini inglesi che bisogna imparare naturalmente, senza dimenticare un saluto al nostro regista Eddie Daici, certo. Gratito regista. Ciao Eddie. Allora Antonio, che dici, prima di presentare il nostro ospite, Tony Basso, ci ascoltiamo un qualcosa di folcloristico? Di folcloristico, di Trevisano. Di Trevisano, che ci ha portato il nostro amico Gianfranco Crespan. Allora, stasera ci ascolteremo Me piace il vin de Pergola. Sentirete che Gianfranco... Non necessita parla, traduzione. Sì, diciamo, sì, ma parla lui, sì. Benissimo. Ok. Quel che non soffega ingrassa, inega insegna, specie se a parallo zo, riva un vino stran, non importa se sia de Pergua o de Frasca, de Bote o de Fiasca, Prosecco o Marzemin. Eccoci di nuovo in studio e ci ha raggiunto il primo ospite, il dottor Tony Basso. Caro dottore, bentornato. Bentrovata. Bentornato. Sì, perché veramente avevamo bisogno di lei anche perché quest'anno, per questa stagione che ci hanno concesso grazie insomma, alla loro disponibilità. E adesso noi diamo la parola a lei e veda un po', magari ci si collega un pochino più indietro per dare modo ai nostri ascoltatori di riallacciarsi. Riprendere il filo del discorso, sì. Certo. Sì, ci avevamo lasciati con il treno, sì. Che sintetizza un po' il cambiamento che c'è stato a partire dal Settecento. Avevamo accennato, mi pare, la volta scorsa a questa rivoluzione culturale che c'è stata con l'illuminismo, che ha portato a guardare alla natura con un occhio attento e critico, non solamente costretto dalle convinzioni religiose che in qualche maniera frenavano gli slanci, gli entusiasmi dei ricercatori, perché la ragione è quella macchina mentale che osserva e studia i fenomeni, ne deduce le leggi, che sono anch'esse parola di Dio, e le utilizza per costruire la scienza, della quale la tecnica si avvale per produrre quelle novità che chiamiamo invenzioni o scoperte, e sarà poi la fede a guidare le coscienze nell'uso retto di queste novità. No, ma io, scusi, non capisco perché la religione si opponesse a queste cose. Lo chieda a Galileo, che aveva sostenuto che non era il sole a girare intorno alla Terra, ma la Terra intorno al sole, ma comunque l'Inquisizione è tutta piena di testimonianze di queste, chiamiamola pure invasione della fede sulla ragione, quando sono entrambi due doni che noi abbiamo. Assolutamente, non c'è contraddizione. Non c'è una contraddizione, però è stata esasperata, esatto, fino da umani, a questa, diciamo, a questa mentalità nuova che nel Settecento si è fatta strada. Abbiamo parlato all'enciclopedia come il prodotto, diciamo, librario di divulgazione delle idee nuove. Esatto. E naturalmente questo ha portato la gente a riflettere, a ragionare, e anche la fede stessa, la fede tradizionale, ha avuto i suoi momenti di crisi, tant'è che ci sono stati delle riduzioni del numero dei preti nelle nostre città. E prendiamo Treviso, pensate che per esempio quando è intervenuto lo Stato a sopprimere il monastero dei Domenicani a San Nicolò, in tutto quel popò di complesso c'erano solamente 3 monaci. Questo per dare un'idea di come ormai la fede avesse, una fede tradizionale, non in conflitto con la ragione, avesse anche inciso sulla forma e sulla struttura urbana. Diciamo allora che, perché si dà sempre la colpa alla Rivoluzione francese e a Napoleone, infatti, in queste trasformazioni, ma queste erano cominciate ancora prima. Già la Repubblica Veneta, 30 anni prima che cadesse lo Stato Veneto, cioè nel 1797, nel 767, 30 anni quindi prima, si erano avute le riduzioni, proprio perché non c'era gente, non c'erano preti, delle parrocchie, che da 13 furono ridotte prima a 4 e poi lasciate 5. E se noi le osserviamo, dato che fanno parte della fisionomia della nostra città e quindi della nostra storia, possiamo anche elencare quelle che sono state soppresse ancora sotto la Repubblica Veneta, e anzi facciamo prima dire quelle che sono rimaste. Io volevo chiedere una cosa. Lei ha detto che a San Nicolò c'era questo convento dei Domenicani, no? Cos'era il nostro seminario di adesso? Sì, l'attuale seminario. Allora, le 4 parrocchie che rimasero dopo i decreti della Repubblica Veneta furono il Duomo, Sant'Andrea, Sant'Agnese e Santa Maria Maggiore. Dopo fu aggiunta successivamente, ma non in epoca napoleonica ma in epoca austriaca, fu ripristinata la parrocchia di Santo Stefano. Che poi è di Santo Stefano e San Nicolò, insomma. No, la parrocchia è ancora porta Santo il nome Stefano, di Santo Stefano. Sì. In San Nicolò, occupa la chiesa di San Nicolò, ma ecco, il nome della parrocchia è di Santo Stefano. E c'è una chiesa proprio dedicata a Santo Stefano lì in Piazza Vittoria. Durante l'arrivo quindi dei francesi si sono avute naturalmente il grosso delle soppressioni. Nel 1807 sono state soppresse le parrocchie di San Gregorio, dove c'è attualmente la chiesetta in via Barberia, la parrocchia di San Lorenzo, di cui non esiste più la chiesa, ma che si trovava all'inizio di via 20 Settembre, dove adesso c'è la Cassa di Risparmio, e poi la parrocchia di San Giovanni del Tempio, che noi oggi chiamiamo San Gaetano, la parrocchia di San Leonardo, c'è ancora la chiesa che tanti chiamano di Santa Lucia, perché c'è un'insegna luminosa fuori che ricorda il nome della santa, che gode molta devozione in quella chiesa, la parrocchia di San Vito, venne soppressa, la parrocchia di San Giovanni in Riva, ecco, la chiesa parrocchiale di San Giovanni in Riva si trovava dove adesso c'è la canonica di Sant'Andrea, quindi c'erano due chiese parrocchiali attaccate l'una all'altra, e poi c'era la parrocchia di San Pancrazio, rivale Filodrammatici, che attualmente è adibita ad abitazione privata, e ci sono i resti del campanile della torre che ancora si vedono, e la parrocchia di San Tommaso, che si trovava in Borgo Cavalli, presso poco davanti a dove ci sono gli uffici dell'ULS. Nel 1809, l'anno successivo, venne soppressa e sparì anche la chiesa di San Michele, che si trovava, occupava una parte dello spazio di quella che noi chiamiamo Piazza Esperia, cioè la Piazza Crispi. Lì c'era la parrocchia di San Michele. Dipinti recuperati da quella chiesa sono stati portati nella vicina chiesa di San Leonardo. Santa Lucia, la chiesa di Santa Lucia, che è molto... la chiesa di Santa Lucia è rimasta come tale, ma non era parrocchia. Ah. Poi venne soppressa la parrocchia di San Bartolomeo, che si trovava in via Manzoni. Adesso c'è un magazzino di mobili, prima di uscire verso la strada di circonvallazione, sulla sinistra, un po' arretrata, c'è ancora l'edificio che era la chiesa di San Bartolomeo. E poi, quando è stata nell'ultimo dopoguerra, dato avvio alla costruzione delle parrocchie suburbane nuove, nel prolungamento della via Manzoni e quindi la strada di San Pelaio, è stata costruita una chiesa e una parrocchia nuova, alla quale è stato dato il nome di San Bartolomeo, in ricordo proprio di questa chiesa che c'era prima. Anche San Martino era parrocchia e venne soppressa nel 1811, venne soppressa anche la parrocchia di Sant'Agostino, rimase la chiesa, e quindi rimasero queste quattro parrocchie. Poi successivamente venne ad aggiungersi la parrocchia di Santo Stefano. Questo per quanto riguarda le parrocchie, ma parrocchie che naturalmente erano dipendenti direttamente dal vescovo, ma poi c'erano tutti gli ordini religiosi che avevano i loro monasteri o conventi, e maschili e femminili, per cui in città c'erano a quell'epoca, agli inizi dell'Ottocento, c'erano circa 50 chiese, e un sacerdote autorevole, quale è stato Monsignor Agnoletti, che era l'archivista della curia di Treviso, scrisse, e non dubito di dire che erano troppe, 50 chiese nella città. E anche come conventi forse ce n'erano parecchi. Certamente, sì. Per esempio, avevo citato prima il monastero, il convento di San Nicolò, ma gli altri non erano da meno, perché c'era per esempio il convento di Santa Maria Mater Domini, che è stato soppresso come ordine religioso, e adesso c'è, sia pure chiuso, ma c'è il museo Bailo. Quei chiostri che ricordano. C'era la chiesa e il convento di Santa Margherita, che l'edificio è stato ripristinato dopo l'ultima guerra. C'era la chiesa e il monastero di Ogni Santi in via Riccati, è sparito completamente. Non c'è nessun monastero. C'è il monastero di Santa Maria Nova, che è stato poi occupato dagli uffici finanziari in via Canova. Il monastero di Santa Chiara, dove adesso c'è il liceo artistico. E le canossiane c'erano? Le canossiane sono venute dopo. Ma c'era in abbiamo ricordato, sì, appunto i Domenicani a San Nicolò, le Orsoline a Santa Maria Maddalena, dove poi è sorto la casa di ricovero, per spiegarci, e ancora si vede dentro il chiostro di quello che era il convento delle Orsoline, la casa di riposo, quale allora? Quella delle Lombardo I. Lombardo I, sì, che stanno ricostruendo. Sì. Poi c'era il convento di Santa Maria del Gesù, che si trovava, la chiesa venne demolita e adesso al suo posto c'è l'Istituto Riccati in Piazza della Vittoria, ma dentro ancora nei resti di quello che era l'Istituto Torazza si vedono i resti del chiostro di questa chiesa dei francescani, ecco. Dei francescani di Santa Maria del Gesù. Poi c'era la chiesa della Santissima Trinità dei Cappuccini, è sparita completamente, al suo posto adesso c'è il Collegio Pio X. C'era la chiesa di Santa Caterina, dove adesso c'è il museo. C'era la chiesa e il convento di San Paolo, dove per tanti anni c'è stato il distretto militare sulla riviera. Sì. C'era la chiesa del... abbiamo sì ricordato prima di Santa Maria Maddalena, delle convertite, che era... in via lungo il canale delle convertite in via San Girolamo Emiliani, attualmente a fianco all'asilo di Santa Maria Maggiore. Poi c'era il convento di San Parisio, che con la chiesa San che è stata demolita, ci si intravedono le tracce, ma del chiostro che c'era si vedono ancora le tracce, dove adesso c'è quel mercatino, quindi di chiese, di monasteri, di conventi. Esatto, e la domanda sorge spontanea: quale patrimonio, diciamo sia artistico che di memorie religiose eccetera, è andato spazzato via in pochi anni? Dunque, fortunatamente c'è stata una parte di materiale che è stata recuperata e questo ha dato luogo alla istituzione di due importanti musei, che sono il Museo dell'Accademia a Venezia e il Museo di Brera a Milano, che sono sorti proprio raccogliendo il meglio delle cose che c'erano nelle chiese e nei conventi. Altre opere sono state distribuite in giro per le chiese o messe all'asta e vendute alcune volte dai privati, ma altre volte sono state acquisite dalle fabbricerie delle chiese, altari per esempio, statue devozionali, per esempio la Madonna della Cintura che si trovava nella chiesa degli Eremitani è ora nella chiesa di Sant'Agostino. Sì. Ma io vorrei sapere una cosa, per esempio questi conventi dove c'erano ordini di suore avevano anche scuole, asili? Alcune avevano delle istituzioni, per esempio i Somaschi a Sant'Agostino avevano un collegio ed è stato quello che ne ha prolungato la permanenza, nel tempo. Questi beni poi naturalmente una volta soppressi gli ordini religiosi sono stati incamerati dallo Stato e utilizzati in parte per mettere edifici pubblici, la finanza, le caserme che sono sorte e in parte sono stati venduti a privati che li hanno o demoliti o adibiti ad altri usi. Esatto. Belle questa conversazione, molto interessante. Un traccio proprio di storia e completamente di... Peccato che il nostro tempo sia scaduto va verso e alla prossima termine. Alla prossima, vero dottore? Sì, alla prossima serata ritroveremo ancora per parlare di questa Treviso ottocentesca molto e delle cose che sono intervenute che hanno trasformato la nostra città. Sì. Noi la ringraziamo sentitamente. A lei. Grazie per l'incontro. L'aspettiamo la prossima volta. Grazie e buonasera. Ringraziamo di nuovo il nostro dottor Tony Basso. Grazie dottor Basso. E proseguiamo col secondo brano in programma, che è cantato da Caterina Valente e intitolato Till. Vivrà per noi l'amor. vivrà, potrò con te sognare. Dir finché il mondo sarà, ogni cosa potrà dirti che sono tu. Sin quando c'è il calor che scalderà due cuor, saprò cos'è l'amore. Ed eccoci di nuovo in studio con il secondo ospite della nostra serata. Vorrei dire, ho tanta voglia di presentare questo ospite, che è l'architetto Giorgio Fantini. Buonasera, architetto. Il nostro, naturalmente, buonasera, mentore trevisano di uno sport bellissimo che è il rugby. Buonasera. Bentornato. Bentornato. Sono qua che aspettavo voi che mi chiamaste. Andai in ferie. Sollecitava l'invito. Abbiamo appena cominciato da poco. Deve essere la quarta puntata questa. Aveva fatto una bella serie di mesi. Diciamo forzate, ecco. Perché io avrei cominciato. Comunque a me piace venire a fare la trasmissione. Per cui. Soprattutto quando ci sono ospiti di questa fatta. Certo. Io mi diverto magari. È quello che facciamo noi, stupidate, sempre belle anche quelle, insomma, infatti. Nostra città, insomma. Certo. Allora, carissimo architetto, stasera ci parlerà dell'ottantesimo compleanno. È da poco venuto. Ha un piccolo precedente. Hanno fatto una mostra allo spazio degli Alpini al Ponte Garibaldi, hanno fatto una mostra sul rugby, quest'anno sì, sul rugby. Io avevo dato una mano, ho dato dei disegni, qualcosa, ho detto interessatevi voi, se avete bisogno di me sono qua, e hanno fatto bene, da Franco Bolli, da Gagliardetti, da Bandiere, da Magli, insomma hanno fatto la storia del rugby, c'era la storia anche delle mie Red Panther del femminile, e perciò mi ha ricordato anche là. Ma credevo che fosse questa mostra in omaggio ai nostri 80 anni del rugby, e invece non l'ho trovato questo spirito, anzi non lo sapevano nemmeno. E allora su Sport Vigiano ho detto così, mi dispiace, ma è meglio che ci troviamo a fine settembre, fine ottobre, non so quando, e facciamo un bel revival degli 80 anni del rugby. Buttato là, abbiamo dovuto farlo praticamente. E allora abbiamo chiamato i vecchi prima di me, e quelli del tempo mio, quelli dopo degli Ignis prima. Noi siamo stati i primi in assoluto ad avere uno bisogno, chiamiamolo così, di uno sponsor. E abbiamo fatto anche una maglia con tutti i nomi delle prime squadre che hanno giocato, che poi lo dirò. Ma da Garbuio a Faema, a Ignis, a Metalcron, a Benetton, siamo tutti passati attraverso, attraverso lo sponsor, lo sponsor che, che un che tempo serve, non era così che serve diffuso, da noi hanno cominciato col dopo lavoro ferrovieri perché così avevano i biglietti gratis per il treno e c'era, c'era anche quello. E questo ottantesimo fatto così, trovato una data e visto, pensavamo di avere perlomeno 80 giocatori. Allora abbiamo cominciato a, a levar via i presidenti, a levar via i, i dirigenti, a levar via i massaggiatori, a levar via gli amici, a levar via chi ha giocato a rugby con le scuole o con i bar, e abbiamo cercato di invitare i vecchi giocatori. Il giocatore più vecchio attualmente è, ed ha partecipato, è il papà del sindaco Robo. È venuto il sindaco con noi quel giorno là, sì, perché c'era il papà. Ah, che sarà, avrà anche una certa età? Ha una certa età e lui fa da badante, insomma, perciò, perciò ha dovuto venire con noi. Insomma, sì, era l'unico, chiamiamolo così, estraneo, ma l'unico uomo dell'istituzione. Diciamo, personifica così. Treviso, e lui ha detto: ho giocato anch'io a rugby a scuola. Va bene, tutti dobbiamo giocare a scuola, vediamo fuori le scuole. Ma c'era dei vecchi, c'era Ado Campeol delle Beccherie che ha giocato, oh, sì, anche lui, poi c'è Ocarnio, quello che ci contava delle barzellette, il Zucchello e così, che io sono uno dei pochi giovani che ha acquistato il primo titolo italiano con la Faema nel 55-56. Esatto. Poi è venuto l'Ignis, dopo con quelli della Metalcron e quelli della Benetton. Abbiamo fatto tutto un elenco di tutti questi giocatori, telefonato, scritto, chiamato, pensavo di averne 80, eravamo in 104. Però, scusi, quando si è svolto? Perché non mi ricordo. Il 29 di settembre, ecco, qui, al circolo ufficiale, al circolo unificato dell'esercito di Vincenzo Margherita. Quindi una degna cornice per un evento particolare. 100 persone ci stavano, non ci stavano tutti quanti. Allora io ho portato il massaggiatore nostro che chiamavamo Bau Bau perché aveva sempre correva con la tuta della Faema e mi dice: ora ci vediamo con le mogli quella. ma ti gatto mai giocare rugby? Cosa mi dite? No, te ti domando, hai tu mai giocato? No, gli dice, e ora cosa c'entra? Cosa c'entra? Non c'entra niente. Niente mogli. Niente mogli. E ti tisi su una bolla di sapone, perché ti, è un dirigente che ci accompagnava quelle volte là, non c'era nessuno che si mangiava i panini, ci portava i panini da casa. E abbiamo invitato queste due persone, Manavello, che era presidente notaio presidente di Metalcron, però era giocatore al tempo nostro e perciò l'abbiamo invitato al certo, al tempo nostro, insomma. Abbiamo fatto una bella festa, ho telefonato, non si può parlare di sponsor qua, no, però uno del vino ci ha dato delle bottiglie del vino. L'avete trovato? Ho scritto, mi servono 80 bottiglie perché ho 80 anni di rugby, e lui ce le ha mandate, ce le ha offerte. Oltretutto anche il vino Magnum per la bicchierata del dolce. Insomma, questo si chiama essere bello, diciamo, sì, decisamente comprensibile. Abbiamo avuto uno sponsor eccezionale. Avete e poi abbiamo, bene. Abbiamo fatto un enorme dolce con tutti i tre scudetti grandi di Arizzoni, anche là ognuno si è divertito. Il presidente del Benetton, Amerigo Zazzata, ci ha omaggiato di 90 biglietti, bastavano 80 dopo, insomma, perché non tutti avevano già le tessere, per andare a vedere la partita alla sera. E siamo andati e quella partita l'hanno anche vinta il Treviso contro gli Scarlet, insomma, è anche bella, molto bella. Quindi un terzo tempo esplosivo. Un terzo tempo esplosivo. E domenica poi mio fratello, che ci ha fatto anche tutte le maglie là, perché lavora con un altro amico, hanno fatto un torneo, abbiamo partecipato anche noi vecchi senza giocare, perché abbiamo perso la partita, noi abbiamo rinunciato alla partita. Di un rugby a toccarsi, touch rugby. E una mattina, una giornata meravigliosa a Monigo, con bambini, bambine, zii, mogli, ragazze, suore. Il vero spirito rugbyista. Nonne e nonni, e i ragazzi hanno giocato ricordando quelli che si sono mancati. Il nome della squadra aveva il nome di un giocatore che è mancato. Che è mancato, sì. Perciò è stato bellissimo, chiuso con una grigliata enorme, insomma, ma molto bello, insomma, simpatico. Insomma, si chiude sempre col mangiare e bere, sarebbe il terzo tempo. Il terzo tempo, noi abbiamo che il quarto e il quinto tempo. Una volta hanno scritto un libro sul quarto tempo, mi scriverò il quinto, insomma, tutte le mai grazie che abbiamo fatto, non altri. Checchi, non so se lo conosce lei. Checchi Mazzariol, sì. Ha aperto una birreria che si chiama proprio il terzo tempo. Terzo tempo, sì. Ed è quello sacro ai rugbyisti. Sì, lui vuole che andiamo là. Io non bevo birra. Ma è buonissima quella birra. Sì, io non bevo birra, la bevo all'estero qualche volta, ma se mi metti via qualche bottiglia di vino vengo a trovarti, no? Perché se si mangia solo un ossobuco, si mangia pollo fritto, insomma. Allora siamo andati l'altro giorno a mangiare al mercato, e allora lui è venuto, ha mangiato con noi, insomma. E ma noi lo mangiamo anche bene. Allora ho detto, venite a trovarmi di là, che sentiamo affetti miei, così. Grande, ecco. Mi viene in mente una definizione di rugby e di calcio. Il calcio è uno sport da gentiluomini giocato da bestie. Il rugby è uno sport da bestie giocato da gentiluomini. Ecco, è una cosa, non so se sia un inglese o cose, però ha dato una definizione che mi pare assolutamente. Sì. Quando si vede che solo la haka, roba di questo tipo, insomma, è sempre una cosa. Sì, ma anche adesso, se il calcio potrebbe migliorare di molto, adesso il rugby gioca senza recinzione. Esattamente. Adesso il rugby gioca con la televisione, perciò tutte le botte che si davano agli altri adesso vengono viste e l'arbitro ti butta fuori per 10 minuti se fai antigioco e se sei scorretto. Scusi. La fermo subito, il giocatore di pallone lo buttassero fuori 10 minuti finisce tutto, anche i giornali, anche la televisione. Naturalmente è il problema dei grandi capitali che girano. Io volevo chiedere, a quanti anni cominciano a fare rugby i bambini? Ma io ho cominciato con le scuole a 14 anni, 15 anni, ma rugby si gioca ormai a 8 anni, da 6 anni, under 8, under 9, under 11, under 13, under 15. Avete anche la squadra proprio di bambini piccoli? La fanno proprio comunali e la camera. Anche io ho dato la prima mano del primo torneo, che non era Topolino, Città di Treviso. Poi dopo il terzo anno torneo del Città di Treviso, è meraviglioso, bellissimo, raccoglie un giocano anche le bambine migliaia, assieme, esatto. Tutti quanti il Waco, ecco, dobbiamo dire che lo organizza su un modo eccellente, insomma. Sì. bello. Beh, adesso ci fermiamo un momentino per ascoltarci la terza canzone in programma, che è cantata da Marie Laforêt ed è intitolato, proprio siamo in tema, La vendemmia dell'amore. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Tu cadrai nelle mie braccia come grappoli dell'uva che teniamo nelle mani. Quando il sole di settembre scenderà sulla campagna canteremo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Poi verrà la sera quando tutte le farfalle dormiranno sulle foglie. Se davvero mi vuoi bene, ogni chicco di quell'uva ci daremo un lungo bacio. Poi tornando verso casa con le mani nelle mani canteremo una canzone. Questa come noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Thank you. dici addio sarà triste, amore mio, ma l'amore dura un attimo. Quando credi di sognare ti risvegli tutto un tratto proprio quando dici t'amo. Ma se un giorno sarai solo non scordarti che una volta cantavamo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia. Ed eccoci di nuovo in studio per ascoltare un'altra tranche, diciamo, di questa storia affascinante, quello dello sport trevisano, del rugby trevisano. Un'altra piccola tranche, ma soltanto, penso io, per partire dagli esordi. C'è una tessera che aveva Berto Secoli, che era il capo di comandante dei vigili, che aveva 1929 sede Beccherie. Beccherie, al ristorante. Era dal 1929, perciò diceva il rugby è quello. Questa tessera che ho data a Garatti, Garatti l'ha pubblicata nel suo, per fortuna, nel suo almanacco, nel suo storia dello sport. E poi dice che me l'ha data, io non l'ho più trovata, è andata persa. Berto Sequis è morto, ma comunque ufficialmente il rugby è partito nel 1932 con Livio Zava. Livio Zava era universitario a Padova, ha visto giocare il Padova, gli ha rubato anche delle maglie, perché la prima formazione del Treviso aveva le maglie, bianco-nere del Petrarca. Con loro, con suo amico che è dato medico, credo, l'ingegner Sardi di Mestre, hanno scommesso chi cominciava prima a Mestre o a Treviso. Comunque nel 1932 ha cominciato il rugby trevigiano, che la prima maglia era GUF, Gioventù Universitaria Fascista. Poi c'era la federazione, un'altra maglia, FFGG, Federazione Giovanile Fascista. Poi c'era il dopo lavoro Ferrovieri, poi c'era il rugby Treviso che si è alternato quando non c'era lo sponsor, è venuto il Garbuio. Il Garbuio, il Treviso è arrivato primo in classifica a pari col Rovigo e hanno fatto lo spareggio a Padova con 10.000 persone alla Piani e hanno perso ad oltranza, hanno fatto i tempi supplementari e ancora a parità hanno fatto ad oltranza 130 minuti, è un record, una cosa pazzesca. Maci Battaglini, che giocava col Treviso, io sono andato a vederla con loro. Ha sbagliato un calcio franco, dall'altra parte opposta dopo 3 minuti l'arbitro ha dato lo stesso calcio franco, è andata dentro da Baratella e quindi è stato un infortunio da quel volta là l'arbitro non ha più arbitrato l'Ena di Bologna perché l'ha fatto un calcio andiamo a casa, E dopo è venuto la Faema, che ho vinto questo titolo. Dopo io ho avuto la fortuna anche di andare a militare a Padova, alle Fiamme Oro, e anche là titolo, ma cioè, era un'altra storia. Poi l'Ignis Treviso, che l'Ignis sta anni bellissimi, 3 anni di bel gioco, insomma, abbiamo avuto aiuto da Brisolin, che ha chiamato Borghi da Varese. Da Varese, sì. Arriva la squadra di pallacanestro. Il patron, il mitico patron Borghi, sì, esatto. Bellissimo. Poi dopo Lini sembrava la Coca-Cola, se sapeva qualcosa, era troncon, è riuscito a trovare il Metal Chrome. Ecco, e la Metal Chrome ha fatto una vita gloriosa, senza mai vincere su quello spazio là. Ha vinto nel 1978 il titolo, l'anno dopo era Benetton, cioè con lo scudetto del primo anno aveva la maglia del Benetton. Poi Benetton è 34 anni che bisogna dire grazie, insomma, a una formazione che adesso viaggia per l'Europa e con soddisfazione con grande anche, soddisfazione e con Heineken in tutte le cose, ma in tutte quante, insomma, perciò il rugby Treviso è conosciuto anche fuori, adesso c'è un libro che lo ha dedicato a Raby Casale, un giocatore della Neo Zelanda, mi ha fatto vedere, lo pubblicherò. Kirwan? No, non mi ricordo, non Kirwan. No, è un giocatore vecchio che è andato, McCraig, che ha scritto un libro su McCraig, che è del terza linea, e lo ha dedicato a Raby Treviso, con la dedica a Raby Casale. E quindi sono straordinari. Anche questi importi, di questi innesti di stranieri. Sì, abbiamo avuto Liner, che era un'apertura australiano meravigliosa, lineare. Sì, anche simpatico. Alcuni neozelandesi. Neozelandesi, bene, ancora che viaggia. E Martin Castrogiovanni? E Martin Castrogiovanni è sempre un simpatico. Cos'è un rugbista? Sì, il rugbista un orso. È un argentino, e non so se sia ancora fidanzato di una ragazza qua trevigiana, una sciatrice, la Candiago, non so ancora se sia fidanzato, siamo un po' avventurieri, noi altri siamo figli, il nostro sport è negativo. Questi termini poi tecnici, il rack, il pack, sì, la meta, il drop, e tutte queste cose qua, occorre anche una certa cultura. Ma noi abbiamo Grain, neozelandese, che ha sposato una trevigiana, e poi c'è sempre il solito, come si chiama, la più bella del mondo, se mi sfugge anche il nome, che ha sposato un'altra trevigiana, che Liner ha sposato una trevigiana, e si vede che trovano terreno fertile. Hanno trovato Treviso, che è la patria delle belle donne e della marca gioiosa e tamorosa, giustamente. Ma sapete che non ho mai visto il film Signori e Signore? Quest'anno mi pare che facciano una commedia al comunale, proprio Signori e Signore. Sì, certo, io invece del film gli racconto in prima versione della piazza. Noi eravamo della piazza, una volta glielo racconto a Roma, adesso si passava a piani. Sì. Quando una signora è andata a trovare suo marito in prigione, insomma a Santa Bona, si è girato nella cella, anche a titici qua, bam, è arrivata una borsettata, vuol dire che sapeva che c'era il marito e anche la madre. Erano tanti così, un pochino sul burrascoso, diciamo, ecco. Ma bellissimo. Vinalisi faceva parte del grande, è stato proprio un'icona della cultura trevigiana. Me la dirò che la ragazzina casalese era brutta e magrona, ma brutta anche. e quello che l'ha trovata per la fermata era il suo lavoro, era mediatore di maiali. Ah, ecco, allora era sempre nella piazza. Si capiscono molte cose. Se Germi lo sapeva da Gervasoni, da Vincenzoni. Luciano Vincenzoni, esatto, sceneggiatore. Epoche trascorse. Nel 60 mi pare che lo stessero girando. Sì, esatto. Forse nel 62. Sì, però Vinalisi è rimasta una sempre bella, sempre simpatica, un'attrice di classe, è raffinata proprio. Bene, ci ascoltiamo l'altra canzone cantata da Luca Barbarossa, Roma spogliata. Ulla casa. Da te vedrà. Quell'inverno l'odore di caffè negli autobus era di rito, e la pioggia non cadeva giù per caso né per gioco. Nei cinema Hollywood cantava la nostalgia, un po' bagnato guardavo per la strada la gente mia. Roma puttana, quattro dischi, un gatto, una serata strana. Roma spogliata dei suoi tanti amori, dei suoi vecchi fiori. Roma fatata, lasciami cantare una serenata. Vai! Da-di-da-da. Nelle macchine appannate dai discorsi su carnevale, i bambini disegnavano spauriti i loro cuori. freschi, vestiti come al mare, fan tremare le signore coperte di animali sempre più rari. Roma venduta per due soldi a una vecchia americana, Roma nascosta sotto il fumo nero dei nostri cannoni. Roma incantata, lasciami suonare una serenata. La pibedera, la pibedera. Quell'inverno, quell'inverno, se la mente non mi inganna, era d'estate. Chiama i giri, che le quattro anche stanotte sono arrivate. Roma sorella, quante volte son partito e ritornato. Roma mia madre, occhi tristi che non m'hanno abbandonato. Roma svampita, calze a rete, tacchi a spillo e un po' di vita. Roma ingannata dai suoi tanti amori, dai suoi vecchi fiori. Roma stregata, lasciami cantare una serenata. Roma spogliata, lasciami cantare una serenata. Eccoci di nuovo in studio e siamo ancora con il nostro architetto Giorgio Fantin, che adesso ci parlerà di... Di una cosa che sono stata male, ma l'ho rigirata. Io sabato... questo qui prossimo, della prossima settimana, dovevo fare la Corsa delle Oche. La Corsa delle Oche è una passeggiata per i bambini, ha vinto una ragazza da 3 anni una volta, fino a 12 anni, fino a 12... Sulle mura, questo sulle mura, sì. Sulle mura. Ed è una festa, stendiamo un telo, cammino fra la mura e il telo, è sempre una festa. Quest'anno... sia la mostra di animali che io facevo, tutti gli animali di tutte le specie bellissime, da Candelù veniva sta azienda, fa solo questo lavoro di particolari animali, non può venire perché non può muoversi dal loro, chiamiamolo, deposito, recinto, insomma, le bestie. E anche quello che Rossetto da Casale, che mi dava le oche, che diceva fra virgolette da corsa, ma non è da corsa, le oche fanno quello che vogliono loro, camminano, esatto. Volano, non, schitano, non sono... si fermano, tornano indietro, ma non sono condizionabili. Non sono condizionabili, no. E non si muove, logicamente, perché l'ULS in tutto il Veneto ha fermato questo trasloco, questa migrazione interno, sì, esatto. E proibendo appunto questa migrazione per colpa dell'aviaria. Io ho telefonato a un veterinario, lui mi dice sì, c'è sempre l'aviaria, c'è sempre, ma è come un raffreddore in tono leggero, in tono maggiore, insomma. A Treviso non abbiamo sentito mai nessuna cosa, il tempo indietro è venuto fuori a Padova, e al 90% colpisce le galline perché sono molte si sporcano, cose così, e sono in allevamento anche pilotato magari, ma il principio di precauzione esiste, perciò anche, esiste esattamente, e perciò domanderemo all'amica virologa, no, in effetti, Antonio. Mi viene in mente se non ricordo male l'aviaria o la suina, ma fa poca differenza, Ilaria Capua, che è un vanto della ricerca veneta praticamente, che adesso ha traslocato o dovrà traslocare nella torre della ricerca della città della Speranza, gli ultimi due piani, i piani superiori, con il suo team, esatto, è stata personalmente voluta dal governatore Zaia per riuscire a fare una sinergia con gli altri ricercatori, ed è un esempio unico in Europa questo della torre della ricerca della città della Speranza. E Ilaria Capua ha avuto il grandissimo merito quando ha isolato per prima il ceppo di questa, mi pare, aviaria, se non ricordo male, di resistere alle pressioni che le venivano da ogni parte del mondo per brevettare la sua scoperta, per secretarla, per metterla a disposizione da un punto di vista commerciale. E lei, unica al mondo, ha resistito a queste pressioni e ha detto no, occorre mettere in rete tutto quello che conosciamo, perché qualora noi dovessimo attendere i permessi, le royalties e tutto questo, il virus si espanderebbe a macchia d'olio, e quindi io credo che debba essere ricordata in modo straordinario. È un vanto. Nella faccia conoscere, parleremo di straviaria. Esattamente, è una persona straordinaria. Io ho partecipato all'inaugurazione della Città della Speranza, perché mi ha chiamato Portoghesi. Un evento meraviglioso. Che è stato lui a progettarlo. Esatto, ha detto, vieni con me, siamo stati... Siete in amicizia, quindi? Bellissimo. Bellissimo, sì. Ecco, questo è un evento straordinario. Ecco, sì, allora, cosa faccio? Allora, chiamo una cognata che è insegnante alle elementari, ho due o tre classi vengono a disegnare, da terza classe fino a quinta, sì, vengono a disegnare le oche, ho chiamato 10 pittori, e faremo disegni sulle occhi e do premi a tutti quanti e basta. Bellissimo. Che peccato, ecco, però. No, ma questa insomma, non voglio rompere esattamente la tradizione. Perché occorre tradizione. Fare di necessità virtù, però l'ingegno dei trevisani si vede anche in queste cose. Certo, per non rompere la tradizione, non fare perché poi adesso il tempo delle fiere finisce. A proposito, è passato via il tempo delle fiere quest'anno? No, finisce domenica. Io lunedì siamo stati con Bellò e Di Chiara. Oca cos'è, no? Sì. Siamo stati a premiare i disegni delle scuole. Emanuele, insomma. Cosa dice Emanuele Bellò? Emanuele sempre schivo. E ora ci hanno dato dei biglietti per i bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati dai genitori che pagano. Giustamente. E allora era il tempo delle oche. Perché si mangiava l'oca rosta quel sera, lì era i folpi, era le castagne. Ma ci sarà anche quest'anno? No? Ci sono. Sì. Io vado su un ristorante con gli amici là, perché ricordiamo un amico Casellato che era il presidente di Oche, siamo stati a New York insieme per una maratona e ora chiamo tutti quelli che nata sono là, e questo non lo sapevo, una maratona quanti anni fa? È 1989. Ma insomma, recentemente? Perché no, ma lui ne ha fatta due, tre forse, Franco. È perché io l'ho partecipato alla trasferta, perché è mancato Emilio Fassi. Ah sì, che lo conoscevo. Se è ammalato durante un allenamento in Restera. Ah. Era già pagato metà viaggio e metà albergo. E io sono subentrato, Franco mi ha detto, vieni, paga così, c'è anche il numero di iscrizione, pensa tutto quanto. Com'è questa esperienza? Ah, sì, è una cosa da straordinaria. Vedere. Io non tornerei a New York, perché è la città della ricchezza e anche della miseria. Ho visto vicino al nostro albergo dormire sui cassonetti. Sì, certo. Sono forse perché c'è i barboni genati là. Un'esperienza diretta. Però c'è di tutto, insomma, andando nel Bronx, queste tenti... Ma è l'evento sportivo in sé invece? L'evento è una cosa meravigliosa. Bordini si arriva terzo quell'anno là e sta insieme con altri, eravamo su un 5 stelle. Bello. Eravamo 5 stelle, bellissimo, insomma, ecco, questo è un bel ricordo che è venuto fuori bello. Tanto è proprio col coso delle occhie, lo ricordiamo. Quindi insomma, da New York torniamo a Treviso. A Treviso. Esattamente. Allora, io dicevo prima, no, che proprio l'altro giorno, Madonna, ormai sono finite le fiere, io non mi sono neanche quasi ricordata quest'anno. I folpi, dove si andava a mangiare, sono le fiere, i primi, da piccoli, da grandi, perché l'Italia noi invece non si taglia mai, si mangiava. Dopo cosa c'è? La frittella, il frittellone. Le frittelle, sì, sono anche belle giostre, ho visto, ci sono belle giostre, sì. Sempre in Prato della Fiera. Prato della Fiera, sì, sempre. Vai in giostra, sono tanti anni, ma mi piaceva andare in giostra. Sì, ma ecco, dai, voglio vedere i cainei, perché quando le bambine, le donne che salivano, altri tempi. Sì. No, io quello non sono mai montata, perché ho sempre avuto un po' di paura. Vorrei annunciare una cosa, perché è venuta fuori venerdì qua scorso. Hanno inaugurato i Cararesi la mostra sul Tibet. Ecco, che questo è passato un po' sotto... E questa è passata sotto, perché sarà magari l'ultima trance di De Poli. De Poli, sì, probabilmente non farà nessuno, chissà, speriamo che faccia ancora qualcosa. Esatto. Speriamo. Il discorso è una mostra da vedere, comunque, è una mostra da vedere, è lontana da noi, anche dal nostro spirito, e anche dal nostro mondo di vita. Nello spirito di Marco Polo, diciamo. Di Marco Polo, ma Marco Polo era come noi altri, un lazzarone, un viandante, gli hanno che sia il lazzarone, insomma. Però è un mondo da conoscere, da vedere. Esatto. È stata inaugurata venerdì? Venerdì sera, sì, è bene anche tutto quanto. Sì. Comunque queste mostre sono veramente da vedere, e anche avere una guida che ti spiega, che ti dice... Sì, la Cina è vicina, l'abbiamo vista attraverso queste cose qua per 2 o 3 anni, li abbiamo visti alternati, insomma, mostre. Bisogna capire anche a questi cinesi, noi abbiamo le ceramiche magari migliori, noi diciamo del 500, ma loro le facevano ai tempi insomma. Sono più avanti di noi. Qualche altro episodio, diciamo, da poter raccontare dei nostri... No, volevo un altro episodio, così, che sempre quello, che ho fatto la corsa delle oche, però l'ho fatta a Roncade il 9 di settembre. Ah, esatto, ha visto, però l'ho fatta in casa mia. Sono riuscito a farla, però quel giorno là io ho chiamato anche e ho fatto partecipare a questa festa che è di Roncade di domenica. Ho fatto partecipare la Dama Castellana di Treviso, che è una nuova associazione, tutti in costume, bellissimo. Molto belli, Hanno sfilato in corteo qui a Treviso, e noi le abbiamo, ai domoli, abbiamo dato da bere e da mangiare, anche una bella patassuta che ha fatto Renato di Domori. Ah sì, Renato. Ma dopo siamo andati a Roncade, io sono là, voglio che andiamo nel castello di barone Gianni Bassetti. Esatto. E sono venuti, loro adesso sono organizzati con anche Noale, con i tamburini di Noale, ma hanno fatto un corteo meraviglioso. Bellissimo, devo dire, sì, con i mercanti dogali. Sì, io ero giocavo in casa, ma una giornata decisamente meravigliosa. Dentro in castello hanno cantato anche una ragazza e un ragazzo, brindiamo i nostri calci. Era in occasione della fiera autunnale dell'artigianato. Sì. Ecco, questa cosa volevo dare, perché questa Dama trevigiana vogliono fare il castello, fare una riedizione del Castello d'Amore in Piazza del Duomo, insomma. Sì. Piazza del Duomo, e lo faranno adesso, pare l'anno prossimo, cercano di farlo, che esatto. Non è proprio facile, non è semplice, insomma, anche perché... da quartieri, per i vari quartieri, insomma. Certo. Via Castello d'Amore anche qui a Treviso, vero? Io quando mi sono sposato si chiamava Via del Macello, e ho sposo da Via del Macello. Meglio cambiare la toponomastica. Sempre le macchine e quelle luci rosse si fermava questa cosa. E ora, contemporaneamente, io dico è stato merito mio, ma invece non è vero, mi devo parlare soltanto e basta. Hanno cambiato la via del toponomastico. Fiologia con le macchine è sempre la stessa. Fiologia con le macchine. Ho vissuto 15 anni via Castel d'Amore. Un cambiamento. In zona proprio. Proprio su un sottotetto là, bellissimo. Avevo la terrazza più grande dell'appartamento. Che bello. Ci sono episodi e memorie, eccetera, che sono una cosa straordinaria. Memorie anche, memorie, come dire, non tanto così di nostalgia, funerea, diciamo, cominciare. Memorie vive, memorie che fanno sorridere. Ma l'architetto le mette in cantiere per la prossima volta? Certo. E difatti, posso parlare un altro mezzo minuto? Un mezzo minuto, sì, perché siamo proprio perché in diritto. Perché sabato, sempre sabato, c'è stata anche la riedizione nuova di San Cristoforo con la benedizione delle macchine. Dichiara con la congrega con l'ACI la benedizione delle macchine, e Zambon poi nel pomeriggio ha fatto il primo di tennis, il primo campo di color azzurro. L'avete fatto lì in via Grada? Alla Ghirada. Non proprio la Ghirada. Un altro personaggio tosto. Niente, noi siamo proprio in dirittura d'arrivo, proprio sono gli ultimi secondi della nostra serata, che corre sempre troppo velocemente, però diciamo quando viene riempita da personaggi così simpatici. Certo. Noi lo aspettiamo la prossima volta. Fa se manco parlare a Tony Basso, manco. No. Come sente, no? Alla prossima volta. Un saluto cordiale a tutti i nostri amici e le nostre amiche. Noi la ringraziamo tantissimo e l'aspettiamo per una prossima volta che spero sia presto. Io, come sempre, saluto affettuosamente tutti quanti. Grazie, con il mio grazie. Solito. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.